Ogni giorno, all'ora sesta, c'è la musica che pesta. Muovi un po' la testa. Bogaci a questo. Fa un programma strano, il cammino di Gigi D'Agostino. Allora non l'ho sentito, non era male. Stai a capire, fratello. Dai un po' sulle mani che ho comprato un effetto nuovo. Sulle mani tutti quanti, tutti insieme, forza. C'era una volta un bravo dottore, amava i lamponi e leccava le more. Suonava le storie con anima e core, ma era imperfetto e viveva in errore. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Fammi sentire sta bella cassa e vai. Ci hai rotto sto quartino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Oggi è momentaneamente disconnesso. Questo è il momento promemoria. Ah, è cazzino. Dai, G. Ce la puoi fare. Dai, G. Ce la puoi fare. Dai, G. Ce la puoi fare. C'era una volta un bravo DJ che di palle ne aveva sei. Gigi D'Agostino, musica che le unisce. Momentaneamente disconnesso, il ragazzo un po' depresso. Casunamo, non è che mica giochiamo. Questo è il cammino di un bravo bambino. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. D'Agostino, reparto pelle d'oca.

fermiamo quel minimo. Riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Ogni giorno, alle ore 18. Ascolta bene. Tieni la radio più vicina. C'è qualcosa che cammina. E mentre lo cecco la pancia musica, paglia la pancia musica, paglia la pancia musica, maestro. E mentre lo cecco la pancia musica, paglia la pancia musica, paglia la pancia musica, maestro. E mentre lo cecco la paglia rusica, maestro, musica. E vada buffete. Esistono le sconfitte, ma nessuno può sfuggirvi. Perciò è meglio perdere alcuni combattimenti. Ma che c'è la virgola? Ah. Perciò è meglio perdere alcuni combattimenti nella lotta per i propri sogni. Sbagliato, lo rileggo. Perciò, allora, esistono le sconfitte, ma nessuno può sfuggirvi. Perciò è meglio perdere alcuni combattimenti nella lotta per i propri sogni, piuttosto che essere sconfitto senza neppure conoscere il motivo per cui stai lottando. E questo è tratto da una storia forte di Paolo, quello che scrive. Sulla sponda del fiume Pietra mi sono seduta e ho pianto. Paolo, quello che scrive. Ciao, sono Gigi D'Agostino, quello là. Il cammino è questo qui, tu rimani fermo lì. Se hai coraggio, fatti sto viaggio. Quando si ama non si ha alcun bisogno di capire che cosa accade all'esterno. Tua sorella. Quando si ama non si ha alcun bisogno di capire che cosa accade all'esterno. Che cosa accade? Allora, quando si ama, quando si ama, non si ha alcun bisogno di capire che cosa accade. Dai, buona. Quando si ama, non si ha alcun bisogno di capire che cosa accade all'esterno, perché tutto comincia ad accadere dentro di noi. L'alchimista. Paolo, quello che scrive. E patapuffit. Il cammino di Gigi D'Agostino. Tutto a posto. We'll be right back.

Ci fermiamo quel minimo. Riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Signori, ecco a voi Gigi D'Agostino. La sfida non attende. La vita non guarda indietro. Una settimana è un periodo di tempo più che sufficiente per decidere se vogliamo accettare o no il nostro destino. Stiamo inquieti. Il diavolo e la signorina prima. Paolo, quello che scrive. Casunamo, non è che mica giocamo. Una storia, non ha più storia, e mi mancherà come l'aria. Sono rovinato, sono sputtanato, il sangue c'è un valore che non va. Sarà forse l'alcol che non mangio né frutta né verdura mai. Sono eccitato al solo pensiero di toccarla come piace a lei. Un santo padre che mi fa un gesto, mi raccomando che manda tra di noi. E cammino, cammino nel mio giardino, è come un soldatino. E cammino, cammino, e corro come un bambino, sparo al destino. Ascoltare la musica che immagino e i viaggi che sogno. Oh, su chi succe? Gigi D'Agostino. Vabbè, scie! radice del verbo te saluto e non te vedo. Ciao, sono il tuo sfasciaminchia zen. Se mi vuoi scrivere, acchiappa la pen. 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. E patabu fede. Nocciolina, ma bum a mano. Oh. Ogni giorno, all'ora sesta, c'è la musica che pesta. Muovi un po' la testa. Oh, pi, chia. Ti stiamo stimando che sta suonando Gigi D'Agostino? Oh! Io senti sto suono, ma sta macina na testa. Casunamo, non è che mica giochiamo. La differenza la fa chi balla, chi non si muove una palla. Sapere chi sono, chi sono, chi sono, chi sono, chi sono, chi sono, chi sono. Ho fatto più spazio, qualcosa di buono. Ora può urlare, danzare il mio suono. Ho scritto qualcosa da dire alla gente sulle pareti della mia mente. Per bene sui muri del cuore, chi balla non muore, fa bene l'amore. Questo lo penso, lo dico, lo scrivo, ora lo ballo così me lo vivo. Balla un suono nel tempo. Donano vite, colpiscono in centro, anche i rumori se suonano a tempo. Magari più bella.